cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Sono ancora lì. Cercano noi. Lo sanno che siamo qui. Vogliono questo posto. Non sanno perché, ma se lo ricordano. Si ricordano che vogliono venire qui. Questa è una delle sequenze più drammatiche del film Zombie di Romero, in cui i non morti, ma nemmeno non vivi, hanno sfondato l'ultimo baluardo dei sopravvissuti e sono entrati nel centro commerciale. Gli zombie si aggirano per gli scompartimenti pieni di scaffali di merce, non sanno nemmeno loro perché. Vanno in quello che era il luogo delle delizie, il luogo del massimo appagamento, il luogo culmine delle fatiche di ogni vita, di ogni esistenza, laddove è esposta la merce. Acquistare merce ci ha sempre dato il senso della vita. Acquistiamo merce perché lavoriamo per avere soldi per acquistare merce. La merce ci insegna che ci dà felicità e quindi noi per essere felici dobbiamo acquistare. Beh, io invece ho fatto un'osservazione in questi giorni di festa, girando per la città di Roma, ma mi sono confrontato con altri amici in altre città italiane, hanno avuto la stessa impressione. Le strade sono piene di gente, come sempre, piene di gente che cammina. Cammina però, se lo osservate bene, c'è un piccolo controsenso. Cammina per le vie dedicate alla merce, cammina in quelli che sono i percorsi obbligati nella architettura delle nostre città, articolate, costruite, immaginate perché ci siano delle facili transumanze di esseri umani verso i luoghi della felicità, quindi i luoghi della merce, ma non acquista. I negozi sono vuoti. Parli con i negozianti, stanno lì a braccia incrociate, dicono non entra nessuno, abbiamo i magazzini pieni, la gente la vediamo passare fuori al di là della vetrina, esattamente come i sopravvissuti del film Zombie, asserragliati dentro il supermercato, guardavano fuori dalle vetrine i morti che camminavano, gli zombie che camminavano, battevano la faccia contro la vetrina, picchiavano sulla vetrina, volevano entrare, non sapendo perché, ma non potevano entrare perché loro si erano asserragliati dentro. Qua nessuno si è asserragliato nei negozi, i negozi sono aperti, la gente potrebbe entrare, guardare, acquistare, ma non può farlo, non lo fa, perché la crisi è una sorta di gabbia, non soltanto reale, probabilmente, anzi, sicuramente per molti crudemente reale, ma anche una gabbia psicologica, una gabbia che impedisce di entrare laddove c'è il luogo del massimo appagamento. Vi siete domandati cosa faccia la gente per le strade? Affolla le strade, vanno per strade famiglie, persone sole, persone accoppiate, persone che passano di città in città, vanno per le vie, guardano le vetrine e non acquistano nulla. Cosa fa la gente che riempie le strade e non acquista nulla nei giorni in cui tutti di solito festeggiano acquistando? 800 24 00 24. Quelli entrano spostando i camion. Ci sono centinaia di zombie. Capirai, non vedi che sono un esercito? Per sopravvivere devono aver razziato tutto quello che hanno trovato. Cerchiamo di rendergli la vita difficile. Che sta succedendo? Sono una cinquantina, dobbiamo chiudere le porte. Steven! Dobbiamo chiudere le saracinesche. Non devono sapere dove siamo. Steven! Adesso con le porte aperte si troveranno tra i piedi un migliaio di zombie. Facciamoli scorrere. 800 24 00 24. Chi mi ascolta può raccontarmi cosa faccia lui in questi giorni. Anche lui vaga senza meta, con gli occhi perduti in un altrove invisibile, guardando le vetrine, lasciandosi contaminare dal piacere della merce esposta e non acquista. O altrimenti esiste una chiave di soluzione alla mia osservazione. Sappiate rispondermi cosa fa la gente che affolla le strade in questi giorni ma non entra nei negozi. Giancarlo Liviano, buongiorno. Buongiorno. Giancarlo Liviano d'Arcangelo è uno scrittore, è stato spesso nostro ospite, ha scritto Invisibile è la tua vera patria, che è un reportage del declino delle grandi città industriali, l'industria italiana che non c'è più, Le ceneri di Mike, Fandango Libri, che parla del giallo, delle ceneri scomparse di Mike Buongiorno. Entrambi gli argomenti mi servono come supporto alla mia riflessione, anche perché ci siamo trovati con Giancarlo casualmente mezz'ora fa a fare la stessa riflessione. Ho detto facciamoci una puntata. Tu come te la spieghi, visto che tu hai studiato le architetture industriali, le cattedrali che devono rappresentare anche un senso profondo e mistico per i luoghi e le persone, le dinastie che hanno impiantato l'industria del nostro paese. Oggi sono cattedrali vuote, occhiaie spente, e sanno molto di zombie. E poi le ceneri di Mike, lo zombie che incombe di Mike è il grande affabulatore della merce, il sacerdote di ogni vendita. Sembra che entrambe le cose coincidano nel dare un segno che dobbiamo decifrare questa mattina. Beh, il grande sogno sulla merce sarebbe che in qualche modo si fosse realizzata la grande visione baudelariana della merce come feticcio, idealizzata poi con le sue passeggiate per Parigi intorno alle vetrine. Sarebbe bellissimo se in qualche modo si fosse realizzata questa utopia e di colpo le masse iniziassero a vedere la merce semplicemente come idealizzata all'interno di un grande progetto artistico e non immediatamente per le necessità consumistiche. Al momento non è questo che accade, naturalmente la guardano come esatto. Il poveretto guarda il pollo arrosto sul davanzale del ricco e con il panino cerca di prendere il fumo e farsi insaporire un panino fatto di niente. Esatto, infatti probabilmente ciò deriva totalmente da problemi di mancanza di pecunia, no? da impossibilità materiale. Ecco, ma tu che hai studiato un po' le architetture finalizzate comunque anche al profitto, è giusto che sia così. Ecco, come ti spieghi che in questo momento di passaggio la mancanza di denaro e quindi di potere d'acquisto comunque non impedisca alle persone di muoversi, andare su luoghi che loro fa parte della ritualità di questi tempi, andare nelle vie dello shopping anche se non si compra nulla? Assolutamente, anche perché il centro commerciale naturalmente è proprio impostato proprio per ospitare appunto le transumanze di persone che entrano, vanno per le scale mobili, si fanno attrarre dalle luci, si fanno attrarre quasi dal calore pulsante delle vetrine, no? Viene da pensare che appunto l'unica cosa che non sia stata poi preventivata nella costruzione, nell'ideazione del tutto finalizzata appunto allo scopo finale, cioè il profitto dei centri commerciali, sia appunto l'ironia del fatto che a un certo punto questo posto soldi. Per zombie prevede l'arrivo di zombie senza portafoglio, no? Sara, buongiorno. Sì, buongiorno, volevo dire anch'io la mia. Allora, in questo periodo di crisi... Mi conferma la nostra intuizione, magari, che la gente gira per strada ma non compra nulla? Sì, allora, anch'io come tanti italiani, anch'io giro per strada, giro nei centri commerciali ma non compro nulla, anche perché sto vivendo un momento di crisi con la mia famiglia e anch'io sono come tanti italiani. E poi sono anche malata, ho anche un tumore e quindi siamo proprio chi più ne ha più ne metta. No, dico, chi più ne ha più ne metta, lei ha più motivi. Sì, nonostante quello lei ripercorre, adesso la sua è una situazione molto particolare, non sì. attribuibile alla maggior parte delle masse circolanti, però sì. anche lei ha osservato. Ma io le volevo dire anche una cosa, io ho scritto anche ancora a giugno 6 lettere. A chi? Pronto, ho scritto a Berlusconi, a Renzi, sì. Ho scritto a Beppe Grillo, a Grillo sì. ho scritto a Belen e sì. ho scritto a non mi ricordo più al Gotha del pensiero italiano a un altro personaggio del mondo e della politica e non mi hanno ancora risposto. Dia tempo, lo faranno senz'altro. Beh, comunque non mi ha dato una risposta ma semplicemente parlato della sua epica individuale. In bocca al lupo, Vittoria. Pronto? Sì. Allora, Nicoletti, lei è un genio. Sì, vabbè, vada al punto. Lei cosa fa per strada? Il punto è questo. No. Io dico che lei ci ha azzeccato perché siamo tutti degli zombie imbambolati. Sì. Io no, io meno. E comunque, lei no, lei non è zombie. No, io no, sa perché? Ho smesso già da tempo di uscire per vetrine. E quindi è una sepolta viva, non vedo la differenza. La differenza c'è che la maggior parte della gente, come dice lei, gira a vuoto, poi non compra, così non so perché, per hobby. Quindi i casi sono due: tornano a casa o frustrati perché non hanno potuto comprare quello che desideravano, sì. perché non ci sono abbastanza soldi, oppure girano a vuoto senza un senso logico. E quindi cosa? E quindi io esco personalmente quando devo fare miratamente una spesa ben precisa, ma ripeto, gli altri mi sembrano tutti degli zombie. Ma lei allora esce soltanto quando deve comprare qualcosa, se non ha soldi sta dentro casa, rimane seppellito. No, è diverso. Questa società del consumo ci obbliga, è mai stato lei in un centro commerciale? Sempre, è il mio più grande piacere, non vedo l'ora di andarci, mi piace molto. Pieno di ragazzi adolescenti, anche più grandi, che girano a vuoto. Allora, e non è che vuoto, incontrano altri ragazzi che girano anche loro a vuoto e si stabiliscono, è un network, si stabiliscono, ci si incontra lì. Non credo, io penso che i ragazzi farebbero meglio andare a fare una passeggiata all'aperto, dedicarsi a uno sport, praticarlo oppure vederlo. Allora, questa è una visione salesiana del mondo, non la provo. Ettore, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, buongiorno. Andare a fare la passeggiata, fanno quello che a loro piace. Vanno al centro commerciale perché è pieno di pizzerie, di fast food, di posti schifosi, incontrano altre ragazze, si conoscono e poi cuccano, cioè fanno sport. Ettore, andiamo al punto. Sì, io sono un bambino zombie che gira per il centro, mi piace guardare le persone, mi piace guardare le vetrine e mi piace guardare le cose di cui posso fare a meno. Perfetto, lei diciamo, invece lei diciamo, si sottopone a una sorta di supplizio di tantalo. No, assolutamente, non le guardo con desiderio. Non le guardo con desiderio. Quest'anno sarà forse come più... come un seminarista al casino, guarda ciò che l'allontanerebbe dalla retta via, giusto, anche questo è giusto. No, guardo qualcosa che secondo me, cioè per me, Non rappresentano un mio bisogno. Beh, io nemmeno io guardo la partita in televisione perché non rappresenta il mio bisogno, ma non la guardo, non perdo tempo. Comunque ognuno ha il suo punto di vista, ognuno passa il tempo come meglio crede. Pier Francesco. Buongiorno Nicoletti, ma guardi, io le dico la verità, io le persone nei centri commerciali frequento raramente. Ma guardi, non parlo solo dei centri commerciali, parlo di Via Condotti, via Colla di Rienzo, tutte le vie corrispondenti a Milano, Bologna, Firenze. In generale. Piene di gente, negozi vuoti. Sì, no, ma è anche bello, soprattutto nei centri commerciali, vedere, osservare le persone che si aggirano, come si comportano. Comunque non è vero, sinceramente, per quello che ho visto in questo weekend, che la gente non compra. Magari rinuncia a qualcosa, però... Lei parli con i commercianti, con i negozianti, poi me lo sa dire, tutti mi dicono, rispetto agli anni passati, è un pianto. Sa cosa Nicoletti, secondo me? E non vedo una busta in mano, stanno tutti a mani vuote, non hanno una busta in mano, la sera tornano. Forse a Padova forse siamo più ricchi, non lo so. Vabbè, c'avete Sant'Antonio, il santo degli impossibili, grazie. Le dico velocemente, secondo me è anche un'illusione, cioè girarsi in questi negozi è un rituale. Oh, siamo al punto. Comunque... siamo al punto che toccheremo fra un istante con Giancarlo Oliviano d'Arcangelo dopo le informazioni del traffico. Quale rituale sostitutivo in questi giorni vediamo rappresentato dell'esercito degli zombie che gira per le strade dello shopping e non acquista nulla? Melog. Cronache meridiane. Riceverà la tredicesima quest'anno? Conto di riceverla, sì, come gli scorsi anni, sì. No, non la riceverò perché non lavoro. Sì, la riceverò. No, non lavoro, non sto lavorando. Tu la tredicesima non sai neanche cosa sia? No, non l'avrò mai, credo. Ho un contratto a partita IVA, quindi non è prevista la tredicesima. No, quest'anno... 800-0024, stiamo osservando il fenomeno della transumanza degli zombie metropolitani che vanno per negozi attirati come falene dal luccichio delle vetrine, ma non acquistano nulla. Entrano lungo le vie, si fermano davanti alle vetrine, altre volte sbirciano dentro per dare un'occhiata più da vicino, per una contaminazione più diretta con la merce, ma non hanno mai buste in mano. Qualche commento degli ascoltatori, qualcuno paragona questo tipo di attività al famoso puttan tour. Il puttan tour è un'attività ludica nei paesi, i ragazzi montano dentro le macchine scassate, non hanno una lira in tasca e poi sono sfigati madornali e viscerali, ma vanno in giro dove stanno le puttane e quanto vuoi, fammi vedere la merce, queste cose qua, si beccano una borsettata in faccia ma non fanno nulla. Ecco, è il puttan tour della merce, l'aspetto seducente la merce appaga anche senza acquistarla. Ho in studio Giancarlo Oliviano d'Arcangelo, che è uno scrittore, ha scritto vari libri, si è interessato proprio alle geometrie e alle architetture destinate alla merce. Ma in questo quanto ha peso l'assenza di persone tipo Mike? Oggi Mike che senso avrebbe in un clima del genere? Non potrebbe dire comperate la pelliccia, comperate il prosciutto, comperate le cose che lui vendeva mirabilmente? Sì, io credo che lo farebbe ancora senza ombra di dubbio, probabilmente con molta minore efficacia, visto che quello che mi viene da dire è che c'è da augurarsi forse che anche la società dei consumi con le sue regole e con i suoi rituali in qualche modo sia arrivata a una fase di stanca, no? Nel senso che io mi ricordo quando ero bambino e si aspettava aspettava il Natale con grande ansia e grande voglia, perché era l'unico momento in cui poi alla fine si entrava veramente in una dinamica. Tu stai parlando della Puglia degli anni Ottanta, esatto, però esatto, erano anni felici, sì, quelli. Erano anni felici, era l'apice della società dei consumi in qualche modo, no? E lì era l'unico momento in cui poi si aveva accesso veramente alla merce in una maniera che durante il resto dell'anno non succedeva mai. E la toccavi, te ne inebriavi. Effettivamente si creava il desiderio, perché non c'era questo rituale continuo della merce quotidiana, ma è che in questo senso era il perfetto testimonial, no? Perché ancora era un periodo in cui valeva l'autorevolezza televisiva, lui era il testimonial appunto di tutto un mondo di prodotti e di merce che, come dicevamo, era il suo culmine. Diciamo che la catena virtuosa era ininterrotta, c'era chi produceva, chi mostrava lo splendore del suo prodotto, chi si appagava nell'acquistare, nel farsi contaminare, nel seguire, nel sentirsi accomunato nell'acquisto. Esatto. L'acquisto comune appaga, è un rituale comune. Oggi per questo io lo paragono agli zombie. Gli zombie, è il paradosso dello zombie che vuole mangiarsi gli esseri umani, ma non c'ha più manco lo stomaco, che è tutta una putrefazione. Che mangia lo zombie? In realtà lo zombie, se guardi gli esperti in zombologia, non ha ragione di esistere. Primo, non potrebbe camminare. Un cadavere dopo un po' non cammina perché casca a pezzi. Poi cosa mangia che non c'ha più lo stomaco? È paradossale, però rappresenta la nostra inquietudine. Sì, è il portatore di una fame atavica che non ha possibilità di sfogo. Da questo punto di vista il centro commerciale appunto funge da sua patria in qualche modo putativa, no? Che ormai è diventato un non luogo, però. È diventato totalmente un non luogo che ha dentro di sé proprio le stigmate della morte. Si inventano spettacoli di zombie, per esempio della musica pop italiana, per attirare lì. Ma ormai è come iperrealismo, diciamo. Gli zombie non corrono più cercare attori, si trovano attori per strada. Chiunque di noi potrebbe fare il protagonista di un film di zombie. Maria Teresa, buongiorno. Sì, buongiorno. Lei non è uno zombie? No, no. Io normalmente, allora guardi, le dico, acquisto il centro commerciale, anche perché vicino a casa ne ho veramente diversi, molto grandi. Però in particolare questo Natale mi sono accorta che facendo acquisti online, banalmente su Amazon, ho un guadagno enorme. In particolare io ad esempio acquisto molti giocattoli, una bambina, e il prodotto che trovo ad esempio al centro commerciale a 50 euro, tranquillamente su Amazon a 25. Quello che dice lei è corretto, ma non crederò mai che la massa, la pancia, il ventre molle del popolo italiano abbia fatto una scelta di acquistare online invece che andare nei negozi. Se così fosse, perché perdere tempo per andare in giro a guardare le vetrine? Ti arriva tutto a casa. No, mi scusi, devo correggerla. Io vado al negozio, è bello toccarlo, è bello vedere com'è il giocattolo, il prodotto. Io lo vedo, lo guardo, lo scelgo. Successivamente, quando sono già dentro al negozio, vado subito su. Ma lei però si rende conto che è una punta avanzatissima? Non è che la gente va per strada, tocca le cose e poi se le compra in internet? Non poi, attenzione, le compri immediatamente. Cioè, non è che poi vado a perdere troppo tempo. Cioè, se il prodotto online mi va a costare... Ma guardi, se io segnalassi la sua presenza, le sparirebbero alle gambe come si affaccia una vetrina. Scusi, signor Nicoletti, le dico anche di più. Acquistando online, io rimborso al 100% del prodotto. No, ma io non mi deve convincere questo. Questo lo capisco bene. Questa è la cosa essenziale. Mi scusi, perché se io acquisto il prodotto al negozietto... Ma lei è una dipendente, diciamo, di un'azienda che si occupa di commercio? Ma quando mai? Ma no, domanda. Uno smartphone, come l'abbiamo tutti, uno smartphone che costa solo 100 euro e lo sfrutto. Ma quello che voglio dire, se io acquisto il prodottino al negozietto e mi fanno, no signore, il buono, al limite forse, il buono me lo deve riportare integro. Ma come integro? Io lo apro, se non mi piace, se non funziona, alla casa madre. Invece Amazon mi dice 15 giorni e ti do il rimborso totale. Ma non mi deve, ho capito perfettamente. Ora, lei adesso ne fa la prima della classe, brava, buon Natale. No, non Anna, è della Anna, classe. Segata. Anna. Ciao Nicoletti, buongiorno. Sì, sia conciso. Allora. Sì, concisissima. Credo di appartenere a un'altra categoria, non zombie e non altro. Oh, tutti bravi, tutti santi. C'è qualcuno che dice vado in giro per negozi perché mi sento sfigato e non c'ho una lira, vorrei la roba ma la guardo. Io mi diverto da morire, ho già fatto i regali molto economicamente a tutti quanti, mi diverto con gli amici ad andare proprio per negozi e godermi questa atmosfera. Vabbè, tutti al circo di vedere i disgraziati, ma pensi un po' che crudeltà. No. È il mio piacere personale di vedere queste cose stupende. Noi facciamo watching, non facciamo shopping, facciamo watching. Ah, come quelli che invece di prendere gli uccelli li fotografa. Perché no? Ognuno si diverte come vuole. Adelio, buongiorno. Buongiorno. Allora, io diciamo, faccio parte di quella categoria di zombie che sono i mariti e i compagni che accompagnano le proprie mogli e compagne nei vari acquisti o non acquisti, quando le mogli e le donne di solito aprono pacchi, vedono i vestiti e noi attendiamo pazientemente. Vabbè, nessuno ve lo fa fare, se siete condannati, vi siete condannati a una stirpe schiava, peggio per voi, che ve lo dico. Sì, però io li osservo e li osservo, abbiamo gli occhi sperduti in attesa che finisca più presto. Ma perché quando tornate a casa riacquistate la vivacità dello sguardo? È che noi attendiamo che finisca di aver misurato che le qualcuno varie, vi infili un bel paletto nel cervello, perché questa è la fine dello zombie. E se no tutta la vita continua a camminare affamato. Sì, probabilmente sì, ma saremmo però credo parecchia poi ad essere eliminati, ci vogliono parecchi paletti. Ma la chiave fondamentale dei film di zombie che è quando i morti camminano i vivi non hanno più nessuna speranza. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno, salve, sono Giuseppe da Napoli. Sì. Niente, io volevo solo esprimere un mio parere su questo discorso pessimistico del consumismo. Abbiamo ridotto tutto il discorso ad un passeggiare nel periodo natalizio solo per acquistare. Ci siamo dimenticati il gusto di passeggiare con una persona con cui ami, con cui stai bene. Semplicemente passeggiare. E secondo lei tutta questa folla per le strade ha riscoperto il gusto di passeggiare? E perché non vanno a passeggiare, non so, nelle zone monumentali, nei giardini? No, io sto dicendo che c'è una parte che non compra perché non può comprare, e questo è pure giusto per i negozianti, perché poi siamo arrivati a un punto che prezzi esorbitanti, prezzi che non hanno nemmeno un senso, non hanno un valore effettivo di quello. A chi mi scrive la gente non compra perché aspetta i saldi dopo Natale, già sono tutti in presaldo i negozi, quindi no, ma la gente non compra perché non c'hanno i soldi. Fermo un attimo, finalmente abbiamo un tecnico. Roberto, buongiorno. Sì, buongiorno. Il punto di vista di un commerciante, sennò sembra che mi invento le cose. Corrisponde in realtà a quello che questa mattina assieme a Giancarlo Oliviano ho ipotizzato, che la gente giri, guarda le vetrine e non compra? Indubbiamente, lei ha centrato in pieno il motivo e il tema. Noi ci sentiamo un po' come quei sopravvissuti che sono all'interno del supermercato che lei diceva prima fuori gli zombie, però mi lascio aggiungere solo questa cosa: gli zombie però non cercano di entrare, ci vedono noi all'interno come, che ne so, una scatoletta di tonno, col tonno dentro, ma non cercano di aprirla. Ha notato Roberto che nessuno ha una busta in mano? Come, scusi? Nessuno di queste persone che viaggiano per strada hanno una busta in mano, non hanno nulla. In effetti è quello, spesso io con le mie dipendenti cerchiamo di contare il numero di buste che passano, ma le assicuro sono sempre di meno. O sono di quei due o tre marchi di grandi magazzini con 10 euro fai un regaluccio, ecco, questi sono. Sì, sicuramente quello, anzi mi riallaccio anche al discorso che faceva la signora di prima che fa gli acquisti su Amazon. Anche io, se potessi dichiarare i miei proventi in Lussemburgo, potrei fare i prezzi, potrei fare i cambi merce, come dice la signora, e quant'altro, ma io pago le tasse sul territorio nazionale, pago i miei dipendenti con contratti a tempo indeterminato, quindi siamo sottoposti a tutta una serie di cose, però siamo anche molto aperti, contrariamente a molti che possono pensare, ad andare incontro alle esigenze del cliente. Già siete in saldo praticamente. Anzi li hanno anticipati al 3 di gennaio quest'anno, addirittura, quindi io dovrei la sera del cenone di Capodanno zampone, lenticchie, cartellini e timbratori per poter allestire il negozio. Fermo lì Roberto, sentiamo Giancarlo Oliviano d'Arcangio. Ti ho dato un po' di ispirazioni e probabilmente una tua nuova interessante lettura dei fenomeni urbani e commerciali potrebbe venirne fuori. Come stanno cambiando, quindi? Bisogna ricambiare le architetture delle città? Da questo punto di vista io credo che sia un pochino troppo tardi poter cambiare le architetture delle città, visto che, diciamo, in linea di massima le scelte recenti architettoniche vanno tutte nella direzione di poter veramente accogliere il consumatore. Mi viene in mente proprio l'idea dell'ex Luna Park di Roma, che prima era un grande Luna Park e adesso invece, se verrà ricostruito come un centro commerciale per bambini. Quindi nelle vie dello shopping ci scriviamo parco divertimenti, così la gente ci va lo stesso e sarà contenta. Grazie, alla prossima.